Mix 24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia della storia. Per la puntata di oggi del faccia a faccia della storia è di turno Alberto Moravia. Gli indifferenti, il disprezzo, la noia sono alcuni dei libri che hanno ispirato il cinema e i pensieri di milioni di lettori in tutto il mondo. Alberto Moravia, scrittore, saggista, giornalista, famiglia di origine borghese. A 9 anni si ammala di tubercolosi ossea che lo inchioda a letto per 5 anni. A 18 comincia a scrivere il suo romanzo più famoso, Gli indifferenti, edito a sue spese nel 29. Poi, giovane, si sposa con la scrittrice Elsa Morante in chiesa, celebrante il gesuita Tacchi Venturi, confessore di Mussolini. Scrittore molto prolifico, tra i suoi libri più famosi, Agostino, L'amore coniugale, Il conformista, Il disprezzo, Racconti romani e ultimamente La vita interiore, L'uomo che guarda. In Italia è lo scrittore più ammirato e più disprezzato, amato e odiato, adulato e criticato, tanti amici e tanti nemici. Vita metodica, scrive tutte le mattine dalle 8 a mezzogiorno, ogni romanzo almeno 3 stesure. I suoi temi più propri, il sesso, il potere e il denaro come chiavi di lettura della società. Antiromantico per costituzione, spietato nelle battute a freddo, ma disposto, dicono, anche all'autocritica. Di lui dicono anche che è scettico senza cinismo, astuto senza furbizia, equidistante senza saggezza. Per lui scrivere è un modo, anzi il modo di vivere, è un uomo scritto da se stesso. Moravia, ma se non avesse fatto lo scrittore, cosa le sarebbe piaciuto fare nella vita? Il pittore. E perché? Perché preferisco la pittura alla letteratura. Senta, ma allora quella per la letteratura non è una vocazione irresistibile? No, è una vocazione assoluta. Volevo fare lo scrittore fin dall'età di 9 anni. E quando l'ha capito? In che occasione? L'ho capito quando raccontavo dei romanzi a me stesso, a alta voce. Senta, lei ha detto... A 9 anni? Sì. Lei ha detto, scrittori si può diventare, affabulatori si nasce. Questo è vero. E che cosa vuol dire? Vuol dire che lo scrittore può diventare scrittore attraverso... sia talento, sia sensibilità, applicazione, ma la capacità di raccontare, di narrare è una cosa congenita proprio, si nasce così, e lei è un impulso che non ha niente a che fare con la letteratura. E lei si sente un affabulatore nato? Vabbè, altro che, le ho detto, raccontavo romanzi a me stesso all'età di 9 anni. E di che tipo? Romanzi di solo. Che tipo? Ma chi lo sa, forse romanzi di avventure, ma in tutti i casi... parlavo con me stesso, da solo, e riprendevo il romanzo il giorno dopo, alla stessa ora. Senta, ma qual è lo scrittore che l'ha influenzata di più? Ma, non lo so, forse adesso, una volta dicevo Dostoevskij, ma forse non è neanche vero. Sì, insomma, che... Dostoevskij è stato il fondatore della corrente esistenzialistica del romanzo. Io mi considero un romanziere esistenzialistico. E adesso chi direbbe? Adesso nessuno, mi piacciono i libri buoni e basta. Qual è l'ultimo libro buono che ha letto? Ho letto un libro di Bernhard, intitolato Il soccombente, pubblicato da Adelphi. Moravia, fare lo scrittore rende ricchi? Ma può far guadagnare un po' di soldi per 60 anni. Insomma, lei però di libri ne ha venduti a centinaia di migliaia in tutto il mondo, si fanno film dei suoi libri. Poi con la... Io ho cominciato a guadagnare un po', abbastanza per vivere a 45 anni. Insomma, quando è che uno è ricco, secondo lei? Quando è che uno è ricco? Sì. Ma lei quando si è considerato ricco? Lei quando si è considerato ricco? Ma io... Se si considera ricco? No, io mi considero uno scrittore che... Sì, insomma, sono agiato. Senta, ma che il denaro quanta importanza ha nella sua vita? Nessuna. Nessuna? No. E il potere? Neanche. Ma il potere, per me il denaro per far divertire, il potere è noioso. Senta, ma chi ha potere secondo lei oggi? L'Italia? I politici, poi gli industriali, poi, insomma gli uomini, cioè, gli affari, insomma. Senta, anni fa lo scrittore Oreste Del Buono le accoppiò come vizio capitale, in una sua inchiesta, quello dell'invidia. È vero che lei è invidioso? Assolutamente. Non sono invidioso, sono stato invidioso, sì, di Shakespeare. Ma quindi la storia che lei invidiava Hemingway era una malignità? No, assolutamente una malignità. Io sono stato quello che ha tradotto il primo racconto di Hemingway in Italia. Senta, ma lei... I Sicari. E ho ammirato molto le opere di Hemingway fino a Perché sono la campana escluso. Perché escluso? perché a partire da che suona la campana ha rifatto il verso a se stesso, cioè ha imitato se stesso, che è il vizio maggiore, il difetto maggiore che può avere uno scrittore. È un rischio solo suo o di molti? Beh, insomma, dipende. Bisogna guardarsi dal limitare se stesso, limitarmi in chiunque, ma soprattutto se stesso. Lei non ha mai sentito di correre questo rischio? Finora no. Senta, ma potrebbe avvenire magari. Ma il suo peggior difetto qual è, secondo lei? Non lo so, perché gli artisti non hanno difetti, hanno maggiore o minore vitalità. La mancanza di vitalità è il più grande difetto che possa avere un artista. E a lei non è ancora capitato di sentirsi senza vitalità? Potrebbe capitare. Non è capitato però? No, però ho avuto dei periodi difficili, perché non so, perché non ero in pari con la mia ispirazione. E adesso come si sente? Beh, adesso mi sento molto bene, però naturalmente sto scrivendo un romanzo su cui ho molti dubbi, ecco. Però spero di farcela. Moravia, ma è normale avere dubbi sul romanzo che si scrive, no? Sì, qualche volta i dubbi diventano così, così numerosi e così forti che non si finisce il romanzo. Le è capitato spesso? No, mi è capitato due volte. Quando? Una volta moltissimi anni fa. E la seconda volta prima del mio ultimo romanzo, cioè L'uomo che guarda. Cioè in altri termini, stavo scrivendo un romanzo e a un certo punto proprio l'ho piantato in asso e ho scritto L'uomo che guarda, che sta ancora lì. Senta, ma tra i suoi romanzi qual è quello che secondo lei resterà? No, non lo so, assolutamente. Io credo che vuol dire restare, non vuol dire granché. Tra 30.000 anni non ci sarà neppure più la lingua inglese, nonché l'italiana. E fra 100? Ne prevede uno che resterà? Fra quanti? Fra 100, uno che resterà, lo prevede. 100 anni? Sì. Non lo so. E quello che ama di più allora qual è? Beh, la domanda è più appropriata. Allora risponderò. Cosa si ama di più? La mano, il piede o gli occhi del proprio corpo? Senta, lei parla spesso del meraviglioso, ma cos'è il meraviglioso per lei? Il meraviglioso è ciò che ispira meraviglia. Ciò che stupisce? Sì, insomma, ciò che stupisce, ma non in una maniera volgare. Cioè, come può stupire, non so, un petardo che ti scoppia tra i piedi. Allora come cosa, per esempio? Beh, è uno stupore materiato di ammirazione. Senta, se dovesse vivere in un'isola per sempre e potesse portare solo un libro, quale porterebbe? Non ne porterei nessuno. Nessuno? No, perché, vedi, io ho fatto questo esperimento quando non è un'isola, ma sono scappato da Roma nel 1943 perché ero nella lista delle persone da arrestare. Portai in montagna, scappai, andai a finire nelle montagne della Sociaria. Mi ero portato dietro i fratelli Karamazov, non so perché. Beh, insomma, cioè, certamente non l'ho più guardato. Forse aveva sbagliato il libro da portare via, non ha pensato no, che era possibile. No, la questione è questa, che un libro vale perché in rapporto con un altro, deve portare via una biblioteca, non un libro solo. Senta, ma a proposito di scappare da Roma, perché non dice che non ama più Roma? Ma è diventato un garage. E poi devo dire una cosa, da una parte non mi piace appunto perché è diventato un garage, e dall'altra mi fa pietà perché è la mia città e che è tutto a pezzi. Senta, parliamo ancora di libri. Qual è secondo lei il caso più clamoroso di successo ingiusto che conosce? Ingiusto? Un ingiusto successo? Beh, ce ne sono tantissimi. Ma un esempio? Non lo so. Me ne faccia uno. Ma ingiusto? Clamoroso per lei? Fatto i libri? Sì, che secondo lei proprio non se lo meritava. Ma si sbilanci? Ma non lo so. In Italia non mi ricordo. Mi ricordo un successo che mi sembrò molto ingiusto negli Stati Uniti, che si chiamava Il Gabbiano e Livingston. Senta, è uno scrittore invece, secondo lei, ingiustamente misconosciuto? Oddio, lei mi fa delle domande e mette a dura prova la mia memoria. Ma non lo so, veramente non lo so. Non perché gli scrittori buoni io li conosco tutti. Allora, mare magno della gente che non conosce gli scrittori, chi va a controllarlo? Senta, comunque, qualcuno ha detto che la sua prima moglie, la Elsa Morante, scriveva meglio di lei. Lei si è offeso? Scrive certamente in maniera diversa. Quanto al meglio o al peggio le risponderò, che ho detto, a delle studentesse afghane quando andai a Kabul, feci una lezione all'università. Tutti mi dicevano che più grande Shakespeare o Dante, mi rispose, non è mai la corsa di biciclette. Moravia, la Morante, lei come scrittrice nel panorama del nostro secolo, dove la mette? Beh, la metto dove stare, un'ottima scrittrice. Con tre aggettivi, come donna, come persona, come la definirebbe? La definirebbe in tutto difficile, un carattere difficile. Poi un carattere, una donna provvista di una grande immaginazione. Senta, ma e come... Infine la definirei una persona che ha orrore alla realtà. La realtà è immediata così. Ma poi naturalmente ci sarebbero molti altri aggettivi, che aveva un enorme talento, eccetera, eccetera. Mix 24. Senta, ma come mai lei non ha mai divorziato dalla Morante? Non c'era ancora il divorzio, prima di tutto. E poi lei non voleva. Come mai vi siete lasciati? Oh, mi sono lasciato per una ragione molto semplice, che amavo Dacio Maraini. Quando il Samorante era in clinica, lei scrisse una lettera a Pertini per sollecitare un intervento economico da parte dello Stato. Qualcuno disse che lo ha fatto perché è avaro. Lei cosa risponde a questa critica? Sì, di cose ne hanno detto tante. La sola cosa che so è questa, che non c'era possibile. No, ho fatto molti passi e non ho ottenuto un soldo per la Morante. La Morante prevedevo, speravo che sarebbe vissuta moltissimi anni e avevo già deciso di, quando non ci fossero stati più soldi, di provvedere io. Senta, lei viaggia molto, Moravia. Che cosa rappresenta il viaggio per lei? Rappresenta quello che si chiama estraniamento, quello che i tedeschi chiamano Entfremdung, cioè diventare straniero. Per un po' di tempo fa molto bene alla salute psicologica. Senta, ma lei come mai va sempre in Africa? Cioè, in due parole, in Africa lei cosa cerca? Va dappertutto, ma in Africa molto. Io lo dico subito. In Africa trovo un rapporto tra l'uomo e la natura profondamente diverso da quello che c'è in Europa. In Europa l'uomo è più forte della natura, in Africa la natura è più forte dell'uomo. E quindi l'estraniamento si realizza meglio, no? Beh, insomma, è molto impressionante. Ecco, lei è stato un po' dappertutto comunque. Qual è il paese che l'ha colpito di più? Africa. In generale? No, veramente. L'Africa nera. Senta, e gli Stati Uniti? Beh, gli Stati Uniti ci sono state molte volte, ci sono stato anche un anno di seguito, nel 35. Mi piace New York, è una città meravigliosa, bellissima. In Unione Sovietica ci vivrebbe? No, non potrei vivere in Unione Sovietica. Perché? Ma non potrei vivere neanche in America, però, per pensarci. In America perché hanno un ritmo di vita troppo alienante, così. In Unione Sovietica perché non è il tipo di vita insomma, che mi piace. Moravia, nel 75 lei ha proposto di abolire la scuola media e di sostituirla con il lavoro in campagna e in fabbrica. È una cosa che pensa sempre? Sì, credo che la scuola media non serva proprio a niente. Serve l'elementare perché per leggere, scrivere e fare i conti. Serve l'università perché si sceglie la propria strada per tutta la vita. Ma la scuola media è un parcheggio. Semplificando molto, qual è l'Italia che le è piaciuta di meno? Quella fascista, quella del boom economico o quella degli anni di piombo? Ma, per esempio, al tempo del fascismo, l'Italia ufficiale è insopportabile, però l'Italia non reale. Ufficiale, diciamo così, e soprattutto l'Italia popolare era molto, molto simpatica. Moravia, come deputato europeo, parlamentare europeo, si è occupato molto del problema del nucleare. No, ecco, esclusivamente di questo. Ecco, lei crede al rischio del disastro nucleare o no? Come ci credo? Credo che sia, ma pensa credo che sia qualche cosa di peggio di questo. Cioè, io credo questo, che forse si potrà arrivare a distruggere tutte le bombe atomiche, forse. Ma questo non vorrà dire che il pericolo nucleare è distrutto, perché esiste la formula per fare le bombe nucleari. Con questa formula si possono rifare in pochissimo tempo, perciò l'umanità è condannata a convivere con la propria morte, una cosa senza precedenti per la quale ci vorrebbero delle soluzioni, anche quelle senza precedenti. E tipo? Tipo. Lei ha parlato di una reazione etica. Sì, io credo che ci vorrebbero una soluzione spirituale di tipo etico, cioè la morte va vissuta spiritualmente, allora vengono fuori i rimedi. Ecco, ma per esempio, cosa pensa lei di questa obiezione fiscale contro le armi proposta da molti vescovi del Veneto, per esempio. Ma hanno fatto bene. Guarda, la stessa cosa hanno fatto i vescovi americani, che sono stati coraggiosissimi nel condannare le bombe atomiche di tutto il mondo, comprese quelle americane. Ecco, ma lei ha paura della morte? No, affatto. Ho vissuto tanto. Ma in Dio ci crede o no? No, non credo in Dio. Ecco, ma con la Morante però si è sposato in chiesa, perché? Mi sposavo in chiesa perché faceva piacere a lei. Ecco, invece adesso con Carmen si è sposata in Campidoglio, perché faceva piacere a lei? Beh, io mi sarei anche risposato in chiesa. Mi pare che il rituale della chiesa, come quello civile, basta, insomma, per sigillare un patto, un contratto. Ma lei si sente religioso? Lei si sente religioso in qualche modo? Io sono religioso nel senso che sono simbolico. Credo che la realtà ha un significato. Allora, ovviamente sono religioso. E in che senso non credo in Dio? Nel senso che il mistero magari... ecco, le dirò in che senso. A me il mistero mi sta benissimo. E credo che sia gli scienziati, sia i preti vogliono spiegarlo. Invece non è affatto necessario. A me non piace pensare che è tutto misterioso. Ecco. Senta, ma è misterioso anche il fatto che lei a 78 anni ha deciso di nuovo di sposarsi? Ah, certo. Quelli sono, non dico i più grandi misteri, ma sono i misteri più personali. Ecco, ma cosa aggiunge al fatto di sposarsi a un rapporto d'amore, secondo lei? Il matrimonio, nel mio caso, è stato un fatto puramente privato. Tra lei e... Cioè, nati termini, è stato un elemento di un rapporto che ne comporta moltissimi altri. Non è stato un fatto pubblico. Moravia, tra lei e Carmen comunque ci sono 36 anni di differenza. Ecco, 40, c'è stato qualcuno 47. Tra i suoi amici che l'ha tentato di dissuadere in qualche modo? Nessuno mi ha detto niente di simile. Ecco, ma qual è la qualità che lei apprezza di più in una donna? L'originalità. E fra le tre donne della sua vita qual è quella che l'ha avuta di più secondo lei? Tutte e tre. Dello stesso tipo o diverso? Ma l'originalità è sempre la stessa, cioè qualche cosa di inequivocabile da non confondersi con altre persone. Ecco, lei però un giorno ha scritto che la monogamia è la massima forma di virilità. Questo l'ha scritto un filosofo spagnolo, adesso mica. Lei è d'accordo? Così, così. Però a quel momento mi faceva comodo di dirlo. Ecco, ma allora lei, diciamo in un altro modo, è stato fedele alle sue donne nella sua vita o no? Sì, abbastanza. E la gelosia che cos'è per Moravia? Esiste o no? La gelosia è inseparabile dall'amore, ma non bisogna mostrarla. Ma lei quindi è stato geloso? Non si può non esserlo, però se non si mostra è come se non ci fosse. Ma l'amore nella sua vita, che parte ha? È importante oppure una cosa come tante altre? È stato molto importante, come addirittura si può dire che se dovessi segmentare la mia vita in tante parti, le intitolerei con un nome di donna. Non con un nome di un libro, con un nome... Cioè delle donne che ha amato? Sì, precisamente. Senta, lei ha sempre detto che il sesso è uno strumento di conoscenza, ma soltanto questo? Beh, accidenti, non ne pare poco. Io penso questo, che ogni scrittore ha una chiave per aprire la porta alla realtà. Lo snobismo per Proust, il denaro per Balzac, non so, l'omicidio per Dostoevsky, queste sono le chiavi per... Poi attraverso queste chiavi si arriva a capire un sacco di cose che non hanno niente a che fare con l'elemento principale. E per lei è una di queste chiavi, poi attraverso il senso si può capire la politica, l'alta finanza, non so che cosa. Ecco, ma come mai però nei suoi romanzi il sesso spesso, cioè non è quasi mai gioioso, allegro, ma è quasi sempre legato a un senso di colpa? No, questo non direi. Non è vero? No, non direi proprio. Ci sono... No, è legato a un'altra cosa, è legato a altre cose che non c'entrano affatto col sesso. E cioè? Il fatto sociale, con la politica, con la morte, ma non è legato al senso del colpo. Ecco, lei però, soprattutto negli ultimi libri, ha descritto i fatti sessuali in modo molto crudo. Perché? Perché penso che, non crudo, naturale, è anormale, penso che la più grande conquista di uno scrittore è quella di mostrare il sesso in maniera insignificante. Ecco, ma allora lei cosa pensa della famosa frase del Manzoni a proposito della monaca di Monza quando disse «e la sventurata rispose»? Come la giudica? Ma è la stessa cosa che dice Flaubert e Madame Bovary. Dice «ella s'abbandonò», punto. Poi passa a descrivere uno stagno con delle ninfee. Niente, è l'Ottocento, no? Cioè in altri termini, questi scrittori dell'Ottocento non soltanto non volevano parlare di queste cose, ma non potevano neppure, cioè non avevano gli strumenti adatti. Questi strumenti sono stati forniti sia dalla psicanalisi sia dalla cosiddetta rivoluzione sessuale, cioè da una certa così normalità del sesso che il sesso ha acquistato da ultimo. Ma lei Manzoni lo ama o no? Sì, moltissimo, come scrittore però, non come romanziere. E nel Novecento secondo lei chi è il più importante? Nel Novecento di tutto il mondo? Sì. Ma non lo so. E in Italia? Ma in Italia, nel mondo ci sono stati scrittori straordinari come Proust, come Joyce, non posso fare tanti nomi. E in Italia? Ho detto Proust e Joyce a casa, ma perché sono stati, sì, quando ho cominciato, erano i due grandi scrittori all'orizzonte. E in Italia? Ci sono molti ottimi scrittori. Ma dica due. Ma come faccio a rovinarli? A rovinarli? Ce ne sono molti che io amo, in generale amo più i libri degli altri che i miei. Posso dire così. Però due nomi non me li fa. Non voglio fare nomi perché non voglio fare ingiustizia. Allora faccio io un nome. Italo Svevo è un grande scrittore, se tu vuoi intenderci. Ecco, senta, allora, in occasione della morte di Calvino, Geno Pampaloni, il critico, ha detto: è stato uno dei grandi minori del Novecento. Lei cosa pensa? Ma sa, questa frase, la frase grande minore è una frase curiosa. È stato un ottimo scrittore. Una tradizione classica italiana in qualche modo. I libri di Calvino che preferisco sono quelli fino agli antenati compresi, ma meno gli ultimi. Mi piacciono più i libri nei quali, per così dire, è un po' realistico, ecco, più moralista. Moravia, Pasolini per lei cos'è stato? Pasolini per me era prima di tutto un uomo a cui volevo molto bene, cioè quasi un fratello. E poi è stato il maggiore poeta della seconda metà del secolo. Ecco, ma c'è qualcosa che ha invidiato artisticamente Pasolini? A Pasolini? Sì. Io no. No, eravamo molto diversi. Non andavo neanche d'accordo con lui nelle idee. Mi voleva molto bene, abbiamo fatto dei grandi viaggi insieme e apprezzavo molto la sua opera. Ma insomma non è. Mi piace più di tutto le poesie, poi subito dopo il cinema e poi anche i romanzi. Ecco, lei però 10 giorni prima della morte di Pasolini scrisse, leggo testualmente, Pasolini non era proprio un conservatore ma un pre-raffaellita, lo pensa sempre? Ho detto che era pre-raffaellita perché lui aspirava a un'umanità contadina, come i pre-raffaelliti volevano filare a casa, fare i loro mobili, eccetera eccetera, dire alla maniera del tempo di Shakespeare, ecco. E lui aveva una nostalgia per il mondo contadino, ma secondo me era una nostalgia sì, da preferita, cioè romantica. In realtà viviamo in un mondo industriale. Ecco, ma quando è morto lei ha detto che è stato ucciso dal sistema, lo pensa ancora? Sempre no, convinto? Non l'ho detto, non mi pare. L'ho letto. No, io ho detto un'altra cosa, ho detto che dissi, mi pare di ricordarmi, che questo ragazzo che l'ha uccisa, in fondo è stato un po' giustificato dall'odio che c'è in molte persone verso gli omosessuali. Si è sentito quasi. Però ho detto anche un'altra cosa, che il ragazzo ha ucciso in Pasolini se stesso, cioè ha odiato in Pasolini se stesso. Queste sono le cose che succedono con la psicologia. Ecco, ma a proposito di sistema, lei ha detto e ha scritto che l'ideologia che sorregge la sua vita, tutta la sua vita, è quella della rivolta. Ecco, ma sì, la mia opera si corre questo filo. Ecco, lei non prova un disagio però, allora scrive da 32 anni sul Corriere della Sera, che in fondo è il giornale simbolo della borghesia. No, non provo nessun disagio, lo sa cosa disse Stalin una volta, cito Stalin per mancanza di mezzo, mi dicono che mi contraddico, ebbene sì, mi contraddico. Senta, lei è celebre per le sue definizioni folgoranti, proviamone qualcuna. Giovanni Paolo II. È un papa medievale. Craxi. È un uomo di potere, un giocatore. E Fellini? Fellini è un carissimo amico mio, è un uomo geniale. Ma ha ragione la sua polemica contro la televisione? Sì, in fondo sì, ma più che la ragione contro la televisione, contro una certa maniera di intendere la televisione, sia da parte di chi la fa, sia da parte di chi la guarda. Ecco. Cioè, in altri termini, la televisione ormai è insopprimibile, bisogna farla in maniera un po' diversa. Cioè? Ma io quando pensavo a queste cose, adesso non ci penso più tanto, pensavo che dovesse essere educatrice la televisione, invece insomma. Senta Moravia, un'ultima domanda, ma perché non ha mai avuto figli? Non ho mai avuto figli perché per ragioni di ordine, prima di tutto la prima ragione è questa, che i figli sono una garanzia di mortalità, e allora uno scrittore, un artista non ne ha bisogno. I libri che ho scritto sono una garanzia di relativa immortalità, come figli. Mix 24, la storia. La vicenda di Tiberio Mitri, credo con un Hemingway. un John Fante avrebbe potuto scrivere un grande romanzo e si potrebbe fare anche un grande film. Qualche volta non sappiamo vedere le persone dentro il personaggio. In Tiberio direi che le due cose erano molto unite, e questo romanzo, questo fotoromanzo in cui lui in fondo si è trovato a vivere, era davvero la sua vita, era davvero se stesso. Tiberio ha fatto una vita bella oltretutto, però sfortunata anche. Ha avuto più sfortuna che fortuna. Poi si era, con le sue mani, si era rifatto una vita bella, con le sue mani, e poi... GR1, edizione straordinaria. Buongiorno, Duccio Guida, al microfono del GR1. La rete ci ha passato la linea per darvi una notizia purtroppo agghiacciante. Una violenta esplosione ha fatto crollare parte della stazione centrale di Bologna. Ci sono morti e feriti. Il 3 agosto dell'80, mentre l'Italia è sconvolta dalla strage di Bologna, la cronaca di Firenze riporta la notizia di un arresto apparentemente senza importanza. In una roulotte di periferia un cinquantenne è stato fermato per spaccio di cocaina, ma quel cinquantenne si chiama Tiberio Mitri. Oggi su Mix 24 raccontiamo la sua storia. Un ex campione dei pesi medi di pugilato, un ex attore del cinema, un ex divo di fotoromanzi, un protagonista degli anni 50 che ha vissuto un'avventura umana e sportiva sorprendente, fatta di sudore, di polvere, di glamour, di occasioni mancate, di successi, di sfortuna, di talenti e di errori. Qualcuno ha scritto: aveva tutto o quasi tutto per essere grande, ma non riuscì mai a esserlo fino in fondo. Quella di Tiberio Mitri è una storia che comincia negli anni 20 nel rione di San Giacomo, un quartiere popolare di Trieste, perché questa non è soltanto la storia di un grande campione, ma anche quella di una città unica al mondo. Trieste, 1930. Con l'annessione dell'Italia e l'avvento del fascismo, la città che fino a pochi anni prima era stata la meta di artisti e intellettuali da tutta Europa, vive una trasformazione profonda. Nei quartieri che circondano quello che era stato il porto più prestigioso dell'impero austro-ungarico, ai problemi economici si mescolano le tensioni etniche. Tiberio Mitri nasce il 12 luglio 1926 nel popolare rione di San Giacomo, come raccontano i cari amici Lino Capolicchio e il pugile Bruno Bernardinello. Lui ha avuto questa infanzia turbolenta, frequentava dei piccoli teppisti, e quindi proprio come nella miglior tradizione delle storie di pugilato, insomma, a pugni lui faceva con questi ragazzini. In via Riguti sono venuti fuori un 3 o 4 o 5 pugili, come si diceva una volta, c'erano i rioni, no? Che adesso non esistono più, tutti i ragazzi della strada, c'erano battaglie anche fra una via e un'altra, come la via Pal. Eravamo ragazzi difficili, io soprattutto. Andavamo in giro per le case a rubare le maniglie d'ottone e di rame che poi vendevamo ai rubivecchi. Prima suonavamo alla porta e se nessuno rispondeva ci portavamo via le maniglie. Era un ragazzino migherlino, malvestito e sempre sporco. E poi mi ricordo le sassaiole e le risse contro la banda di Dario il Trichego. Avete sentito un brano tratto dal diario di Tiberio Mitri, Una botta in testa. Il rione San Giacomo è un quartiere operaio dove vivono e convivono e si scontrano italiani, friulani, veneti, lombardi che immigrano nella città, insieme con sloveni, slavi, croati che convivevano nell'impero e venivano a trovare quello che era il grande porto. Il problema etnico è soprattutto tra gli italiani e gli slavi che si confrontano qui, in ogni strada, in ogni casa. Il fascismo con la riforma Gentile chiude le scuole slave, chiude tutte le istituzioni e quindi impedisce ad una componente culturale di esprimersi, come racconta la signora Maria Cecada, abitante del rione San Giacomo. Parecchi dovevano avere il cognome italianizzato. Bosic si chiamava Bosci dopo. Bovo Pivez, Bevilacqua. Un quartiere popolare operaio in una città di confine cosmopolita. Figlio di lavoratori portuali, Tiberio Mitri cresce in via Rigutti, ma ha soli 10 anni quando il padre muore improvvisamente, piegato da una polmonite e da un lavoro massacrante. Costretti dalla povertà, Tiberio e il fratello vengono mandati a Leca, l'antico collegio pubblico che risale all'impero asburgico, un ambiente crudo e violento che lo segnerà per gli anni a venire, come ci racconta nel suo libro La botta in testa. La sera, nello squallido camerone che serviva da dormitorio, provavo un senso di angoscia. E gli assistenti, se penso agli schiaffoni per un non nulla, alle bastonate, gente che non sapeva far altro che comandare e infierire. Ma riuscii a battermela. Mi arrampicai su un cornicione e scivolai pian piano, dato che il muro era altissimo. Pochi giorni dopo scoppiò la guerra. Con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, Leca viene requisito per scopi militari. Ma la guerra salva Tiberio Mitri da una sicura sanzione per essere scappato dal collegio. Ormai adolescente, mentre tutta la città si mobilita per il conflitto, Mitri torna nel suo quartiere e ricomincia a menare le mani, come raccontano gli amici Lino Capolicchio e Bruno Bernardinello. Improvvisamente, vedendolo fare a pugni, qualcuno di loro disse: ma perché non vai a fare i pugni sul serio? Poi certo che la palestra era tutta un'altra cosa, insomma, la baruffa è una, il pugilato è tutto un altro, insomma. Non aveva una vera vocazione, cioè perlomeno all'inizio si scocciava, dopo un po' non ha più voglia, andava via. Io sono entrato in palestra nel 42 e lui era già nel 41. Andavo a fare qualche ripresa con lui e un giorno mi sono arrabbiato perché ha cominciato a picchiare come un matto, ho detto: vai, il sacco è quello, io non sono il sacco. Tiberio, ma eravamo tanto amici. E a uno di questi incontri prese un sacco di botte, ma proprio un sacco di botte. E allora disse: non ne voglio più sapere, basta. Nel 42, a 16 anni, Tiberio Mitri si arruola volontario in Marina. L'anno dopo, l'8 settembre, lo trova a Trieste. Mitri viene catturato dai tedeschi che hanno occupato la città e internato nella risiera di San Sabba, l'unico campo di sterminio in territorio italiano. Molti dissero di non sapere, in realtà si sapeva benissimo, come Elda Cecada, abitante del rione San Giacomo. Stavamo abbastanza distante dalla via dell'Istria, in fondo, e là c'era la risiera, e là si sentiva del puzzo, ma pensavamo che bruciassero delle cose. Forse non si seppe il numero, o non lo si seppe mai, perché i tedeschi, quando fuggirono il 30 aprile del 45, fecero saltare in aria il forno crematorio e bruciarono i documenti. Queste le parole di Mitri nella sua biografia La botta in testa. Mi portarono a San Sabba. Lo seppi subito, appena arrivato, che bruciavano gli ebrei e torturavano i partigiani. Vennero a prelevarmi proprio il giorno prima che il mio convoglio partisse per la Germania e mi arruolai nella milizia ferroviaria. Non ebbi rimorsi. Pensavo: questa è fatta. Sono uscito da San Sabba, mi sono salvato dalla Germania e un giorno scapperò anche dalla milizia. Il comandante della milizia ferroviaria era il presidente del comitato pugilistico e ha preso questi ragazzi per non farli andare militare da altre parti, no? Mix 24, la storia. Bentornati a Mix24, oggi stiamo raccontando la storia di Tiberio Mitri, il campione di pugilato degli anni 50. Quando la guerra esplode, Trieste è teatro di uno scontro etnico e ideologico, i conflitti esplodono negli stessi paesi, addirittura nelle stesse famiglie. Il primo maggio del 45 le truppe di Tito entrano in città. Nei 40 giorni gli jugoslavi compiono arresti. Vengono commesse delle atrocità, dopo 3 anni di atrocità commesse dai tedeschi e dai fascisti insieme. Dopo 40 giorni di occupazione jugoslava, il 12 giugno del 45, Trieste viene posta sotto il controllo alleato. Tiberio Mitri può ricominciare a frequentare le palestre e allenarsi. ma i terribili anni del conflitto lo hanno cambiato, cambiato per sempre. Quando sale di nuovo sul ring, Mitri è un pugile dallo stile sorprendente, come raccontano l'amico pugile Bruno Bernardinello, Alviano Fabris, figlio del primo allenatore di Mitri. Bruno Fabris. Finita la guerra, in due anni è cresciuto. Lui nel 45-46 era già peso medio. E difatti ha fatto i primi campionati italiani e ha perso con Fontana, che poi Fontana ha vinto il titolo. Fabris l'ha subito fatto passare professionista perché ha visto in lui, ha notato in lui la stoffa del pugile professionista, cioè il ragazzo che può fare strada nel pugilato. Mio padre prese Mitri e subito capì che aveva classe, cioè era una cosa innata di Tiberio Mitri, e lo allenò. E devo dire la verità che gli stava molto accanto, andava a correre con lui e gli insegnava anche leggere, studiare, non essere soltanto un pugile. È un allenatore insolito Bruno Fabris, introverso, emotivo, scrive, pubblica poesie, dipinge. È molto coinvolto negli incontri e talvolta gli capita di svenire a bordo ring, come raccontano la moglie Bruna e il figlio Alviano Fabris. Mio marito non rinunciava mai a allenare i suoi ragazzi, che poteva essere Natale, Pasqua, Capodanno, che lui non gli lasciava mai. Le voleva bene perché altrimenti non sarebbe svenuto in quel volta che loro cadevano. Mio padre gli aveva insegnato sempre a muoversi sul tronco, spostamenti continui e sempre il busto e sentire il pugno. Mio marito correva con lui ogni mattina alle 5, veniva a chiamarlo e correvano insieme perché doveva controllare se correva. A creare Mitri è stato Bruno Fabris e l'adolescente di Via Rigutti intanto è diventato uno sportivo modello. Ce lo racconta lui stesso nel suo libro La botta in testa. Ero diventato anche onesto nel frattempo. La mia vita era dura, ma io ero contento. Ogni 10 giorni ci scappava un incontro, talvolta anche due nella stessa serata. E vincevo. Fu il periodo più felice della mia vita. L'unico, forse. Questa vita all'aria era un riposo per me. Mi dava una forza che non avevo mai avuto. Libertà, sicurezza e successo. Avevo 20 anni. Da professionista Mitri brucia le tappe. Arriva al titolo europeo con tutte vittorie e un solo pari con Nick Turpin a Londra. Poi, nella rivincita a Trieste, vince Tiberio. E viene il quarto round, scena madre dell'incontro. Per un attimo Mitri ha toccato terra, ecco la sua rivalsa. Un montante implacabile sul viso e il belga è crollato. Otto, un pelo dal knockout. Faticosamente Delanois riemerge dal gorgo, cerca di prolungare il riposo riaffidandosi alle corde come ad una macchina. Avanti, nessuno te lo grida intorno a questo ring di terra lontana. Dai, Trieste! La vittoria inaspettata contro il belga Cyril Delanois il 7 maggio del 49 a Bruxelles proietta Mitri nel giro della grande box internazionale. Il pubblico lo scopre e se ne innamora. Nell'Europa spaccata dalla Grande Guerra, Trieste infatti è l'ultimo avamposto occidentale a soli 7 chilometri dalla Cortina di Ferro. Sono gli anni di Teddy Reno che ricorda così quel periodo. A Trieste c'era Radio Trieste, che era diretta dal colonnello americano Jacobson, che aveva molta simpatia per me e che era appunto il mio datore di lavoro, perché io quando non cantavo continuavo a fare l'interprete degli alleati. E si sentiva molta musica americana. Per le strade, per le rive di Trieste, le ragazze di Trieste cantano tutte con ardore. Oh Italia, oh Italia nel mio cuore, tu ci vieni a liberare. Trieste è diventata da quella città un po' spaventata dall'immediato dopoguerra, è diventata una delle città più importanti. Non ci sono le balere a Trieste, ci sono dei luoghi, non ci sono le cantine, c'è un locale storico come la Dreher che ospita artisti non tanto fermati ma quanto magari rampanti. Nei locali sì, mettevano la musica molto forte, così c'erano dei grandi spiazzi appunto, che c'erano anche gli inglesi che ballavano abbastanza, e ti dico, quando eravamo là ballavamo, qualcuno ci prendeva per ballare. A Avete sentito la triestina Elda Cecada? Le ragazze triestine rappresentano un paese che sta uscendo faticosamente dalle macerie della guerra. La bella triestina diventa un simbolo di italianità e Fulvia Franco ne è l'emblema. Amata e discussa allo stesso tempo, nel 1948 diventa Miss Italia, come raccontano Teddy Reno e Bruna Fabris. Una bellissima ragazza, così, molto aperta, molto allegra, e sperava di diventare una diva mondiale. Ma lei la sapeva già di vincere, questo mi domando sempre, come la sapeva di vincere? Perché quando mi ha partecipato al concorso, e ha detto, Fulvia Franco che sapeva di vincere l'ha vinto, mi ha detto, perciò non occorreva neanche partecipare. Mitri riceve molte lettere dalle ammiratrici, è una star, un ragazzo bellissimo, un divo. Un giorno riceve una lettera piena di baci fatti con il rossetto, è il rossetto di Fulvia Franco che scrive, sono una ragazza triestina, ho vinto Miss Italia. E così la incontra, secondo la sua biografia e ricordo di Teddy Reno. Un giorno mi arriva una lettera, era della Fulvia. Avevo visto le sue foto sui giornali dopo che aveva vinto il concorso di Miss Italia. Avevo una motocicletta che mi avevano regalato dopo la vittoria su Delanois. Saltai sulla moto e partì come un razzo. Ero felice. Era d'estate, l'aria era fresca, pulita. E mi piaceva correre per quella strada tutta curve e abeti. Molto spesso Fulvia Franco veniva a trovarmi a casa mia, con mia madre, mio padre, eccetera, in via La Marmora 36 a Milano. E si disse che un ragazzo gli faceva la corte, che era, insomma, che lei era, si considerava fidanzata e sperava di sposarsi e tutto quanto. Un bel giorno arrivò il Tiberio Mitri, che già era conosciuto, e ho avuto subito simpatia per lui, che parlava un triestino abbastanza popolaresco, e lei, che invece stava in quel momento studiando la dizione italiana perfetta perché doveva fare un film, e allora le avevano detto che aveva un po' di pronuncia dialettale. Fulvia Franco non mi era tanto simpatica perché sembrava di essere chissà chi, e allora non mi andava, perché lei camminava avanti e io, mio marito e Tiberio eravamo sempre dietro il codino, allora mi dava un po' fastidio. Avete sentito Bruna Fabris, moglie del primo allenatore di Tiberio Mitri, Bruno Fabris. Ma prima di sposarsi, Tiberio Mitri deve combattere a Parigi per difendere il titolo europeo contro Jean Stock. La Francia è scossa per la vicenda del pugile Marcel Cerdan, una leggenda nazionale, compagno di Edith Piaf, da poco scomparso in un incidente aereo mentre si recava a New York per sfidare Jack LaMotta per il titolo mondiale. La Francia intera lo piange. Ma subito adotta anche Tiberio Mitri, che viene ribattezzato Faccia d'Angelo. Mitri sconfigge Jean Stock battendo ai punti in 15 riprese. Mitri viene definito il Coppi del pugilato, come racconta il pugile Bruno Bernardinello. Per imparare a ballare, cosa deve fare? Ballare. E là si balla sul ring. È una cosa meravigliosa perché ti aiuta a portare via i colpi, anche a sminuire la potenza dei colpi. La vita di Tiberio Mitri sembra una favola dall'inevitabile lieto fine. Il 21 dicembre 1949 ha battuto Jean Stock. Il 15 gennaio 1950 ha sposato Fulvia Franco in una chiesa piena di invitati e ora vola addirittura a New York per tentare la conquista del titolo mondiale al Madison Square Garden contro Jack LaMotta. Bruno Fabris, suo allenatore, non è d'accordo, come ci raccontano il figlio Alviano e Bruna Fabris. Both men blaze away. It's a real Donnybrook. But LaMotta rallying from the brink of defeat knocks Gottheil down. LaMotta disse: voglio il miglior medio che sta in Europa. Chiamatemi Tiberio Mitri. Sì, ma mio marito che aveva detto a Tiberio prima che il parti, non partire, non andare a combattere, che non te son pronto. Allora va, e mio marito che ha restituito i contratti, perché ha detto, guarda, mi non sono tuo manager in questo momento, e che ha restituito i contratti. I valori autentici dello sport si mescolano invece ad un tumulto, come quello mafioso americano, di grandi organizzazioni, di contatti con i sindacati e la vita politica americana. E il ragazzo triestino ci capita in mezzo. And the cares that hung around me through the week seem to... Mi comprai una Buick decapotabile. Con Fulvia frequentavo locali alla moda e non ci scappò neanche uno spettacolo di Broadway. Seppi a poco che Carbo era sotto inchiesta nello stato di New York perché sospetto di associazione a delinquere e altri reati, tra cui alcuni omicidi. Tutto in relazione col mondo della boxe. Su Mix 24 con Tiberio Mitri, pugile, protagonista di fotoromanzi, attore... Mix 24, la storia. Bentornati su Mix 24. Oggi raccontiamo la storia di Tiberio Mitri, tra le mille luci di New York, dove arriva per sfidare il campione Jack LaMotta. Sua moglie Fulvia sogna addirittura di sfondare a Hollywood. Tiberio Mitri si trova catapultato in un mondo che dietro al lusso nasconde in realtà molti pericoli. Sospetti e voci circolano sul suo avversario LaMotta, detto Toro Scatenato, italo-americano del Bronx, uno dei più forti pugili di tutti i tempi. Istrionico, geloso, irascibile nella vita, sul ring LaMotta è dotato di una potenza devastante. Ma altrettanto discusso e controverso anche il promoter dell'incontro, Paul Carbo, esponente della famiglia lucchese di New York. Si è fatto 2 anni di carcere a Sing Sing, è stato sospettato di vari omicidi, tra cui quello del gangster che ha inventato Las Vegas. E ora che organizza incontri di box, i risultati sono spesso risultati sospetti, come ricostruiscono gli amici di Mitri, Lino Capolicchio e Alviano Fabris. Frankie Carbo era una persona che aveva scommesso su di lui, e gliel'aveva anche detto, guarda che tu... mi deve far bella figura, tu sei italiano, io sono italiano, cioè tra italiani ci capiamo, e Tiberio gli disse, sì, ma anche Jack è italiano, sì, ma quello è italiano a modo suo, diceva Frankie Carbo, tu sei bello, lui non è bello, invece tu sei bello, noi puntiamo su di te, e in realtà però era ambiguo, cioè Frankie Carbo in questa situazione è stato molto ambiguo. Disse, guarda, io vado in America, sono governato dalla mafia, c'è un certo Frankie Carbo che domina, che comanda tutto. Mentre Fulvia stringe subito amicizia con Vicky, la moglie di Jack LaMotta, che nel 1949 è stata Miss America, Frankie Carbo, che gestisce anche Jack LaMotta, impone al pugile triestino un suo allenatore di fiducia, Saverio Turiello, braccio destro di Frankie Carbo. Tra i sospetti e le polemiche dell'ambiente pugilistico, Mitri si avvicina al match contro Toro Scatenato. Negli incontri di preparazione al titolo mondiale, il pugile triestino sembra trionfare con sorprendente facilità, ma l'allenamento per vincere il titolo è compromesso. Ce lo raccontano Lino Capolicchio e Bruno Bernardinello. Un minimo di esaltazione c'è stata. A complicargli le cose è arrivata Fulvia Franco, la moglie. Siccome lui era geloso di lei, lei era stata messa in un albergo per sole donne. Scappava la notte per andare a vedere dove è la Fulvia. Per cui ha avuto un cattivo allenamento. Pessimo. Indubbiamente era più tecnico, ma LaMotta era un grande combattente, un gran fighter, non dava requie alla gente. Aveva una grande agilità, una grande velocità, ma non aveva la pesantezza di pugno di LaMotta. Non aveva l'agilità di sganciarsi dai colpi di LaMotta e non aveva la forza di controbattere perché non era allenato adeguatamente. Non ne poteva più, non ha mai preso tante botte come in quell'incontro, che poi non doveva prendere, lui non era abituato a prenderle, perché le sue gambe lo portavano a volare intorno all'avversario. C'era fumo, Faceva caldo. Io continuavo. Mi buttavo nella mischia senza risparmio. Incassavo, colpivo. Chissà se potevo rovesciare tutto. Ci provavo, tentavo. Ma destavo ammirazione per il coraggio e basta. La tecnica e il gioco di gambe li avevo buttati fin dal primo round. O erano stati demoliti a 1-1 dalla potenza del mio avversario. Senza armi contro il toro. Ma l'ho voluto io questo incontro. E adesso vado fino in fondo. Così Tiberio Mitri, che viene battuto ma non umiliato da Jack LaMotta. C'è ancora posto per l'italiano nella sfera dei campioni. Dopo l'incontro con Toro Scatenato, i medici sono irremovibili. Tiberio Mitri ha subito troppi danni, deve stare lontano dal ring per molti mesi. Il pugile triestino a questo punto, per scappare da New York, dal contratto capestro che lo lega a Frankie Carbo, deve inventarsi un escamotage. Un telegramma da casa con la falsa notizia che la madre è gravemente ammalata. E tuttavia il pagamento delle penali dovute agli americani porta Tiberio Mitri al tracollo economico. Trasferitosi a Roma con l'aiuto della famiglia e della moglie, apre un bar e comincia ad apparire come protagonista nei fotoromanzi. Quando un cliente non intende pagare, il cameriere fa un gesto. Mitri è un proprietario sbrigativo. Quando entrate nel suo bar, è meglio che paghiate le consumazioni. Una volta libero dal contratto americano, il 2 maggio 1954, Mitri ritrova il titolo europeo con un incontro da manuale. L'inglese Randolph Turpin va giù per un KO tecnico. Un'esecuzione perfetta, provata molte volte in allenamento, ma successivamente perde. Poi purtroppo ha perso l'europeo con un certo Imè, che era veramente una bestia. La pesante sconfitta contro il francese Jumet nell'ottobre del 1954 è per Mitri un brusco risveglio. La carriera è ormai al tramonto, classe e agilità non bastano più sul ring. Anche il suo matrimonio è in crisi. Neppure l'ebbrezza di New York o la nascita del figlio Alessandro riescono a metterlo in piedi. Sebbene nei fotoromanzi e nei cinegiornali appaiono ancora insieme felici, Tiberio Mitri e Fulvia Franco si separano. Si è innamorato di un altro uomo, succede nella vita, ma è stata onesta, perché non è stata, poteva fare l'amante segreta. Per chiudere la carriera, Mitri accetta una serie di incontri in Australia. È qui, dall'altra parte del mondo, che hanno trovato riparo migliaia di esuli delle terre friuliane, annesse alla Jugoslavia, ed è ora qui, fra quegli emigrati, che lo accolgono come un eroe, che Tiberio ritrova molti amici d'infanzia. Un finale di partita crepuscolare tra incontri malinconici e esibizioni da baraccone. Eppure, al rientro dall'Australia, ancora una volta, Mitri si inventa una nuova esistenza. E il 1957 a Roma si respira la dolce vita. Già divo dei fotoromanzi, l'ex pugile si fa strada anche nel cinema e nella televisione. Il suo bar diventa un punto di ritrovo per i personaggi dello spettacolo e Mitri fa il salto sul grande schermo in attesa del grande ruolo da protagonista, che però non arriverà mai. In ruoli secondari girerà Addio le armi, La grande guerra, Ben-Hur, I nemici, Lo sbarco di Anzio. Di lui, come è stato scritto, piace quel nome da imperatore, l'aspetto atletico e il fisico perfetto. Mitri recita nei film di registi come Monicelli nella Grande Guerra. Questo, se da un lato lo aiuta a dimenticare la grande delusione dello sport, dall'altro è questa stessa delusione che comincia ad avvelenarlo. Sentiamolo. Ora frequentavo tutti i locali più belli, andavo di moda e al bar tutti si dicevano miei amici. Ero diventato un estroverso. Nei night non servivano latte e dicevo uno scotch. Volevo vivere l'infanzia che avevo chiuso fuori dall'educatorio, ma era come dare a un bambino armi vere per giocare alla guerra. Quello di Mitri sembra ormai un declino approssimato per eccesso. Nel 1967 viene fermato per le accuse della sua ex compagna, l'americana Ellen Davis, dalla quale ha avuto anche una figlia, Tiberia. Nello stesso periodo un altro pugile triestino, Nino Benvenuti, conquista a New York il titolo mondiale dei pesi medi. La separazione dalla moglie, come testimonia l'amico Bruno Bernardinello, lo mette in crisi. Dopo della Fuglia si è lasciato un po' andare, mi ha risentito molto. Era un ragazzo che aveva un sentimento. A sorpresa è proprio Fulvia Franco a difenderlo pubblicamente. Intanto il loro figlio Alessandro ha 16 anni e sogna di arruolarsi in Marina, come aveva fatto suo padre prima di lui. Ma il rapporto tra i due è molto difficile, come conferma lo stesso Mitri in un'intervista. Però di questo periodo non sempre lieto della sua vita le è rimasto qualcosa. Oltre alla gloria le è rimasto suo figlio Alex. Sì e no. Vede, la separazione è avvenuta, ero rimasto riservatissimo sulle cause della separazione, con un impegno chiaro che Alex mi fosse concesso tutte le settimane e via di seguito. Però in questi ultimi tempi non so cosa sia successo, non lo vedo più. L'uomo facile sul ring, cioè nel pugilato, vuol dire un uomo finito, un uomo che non ha più energie da spendere sul ring, un uomo che è sorretto soltanto da quei pochi allenatori, manager e forse anche qualche pugile compiacente che lo fa continuare. Mentre io non sono mai stato un uomo facile sul ring e neanche nella vita. Avete sentito Tiberio Mitri, un fuoriclasse. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24. Nel 1970 Tiberio Mitri viene arrestato di nuovo per una scenata di gelosia che sfocia in una rissa. Per lui è un duro risveglio dalle illusioni della dolce vita. I tempi sono cambiati, il bar è fallito e anche il cinema chiude le porte a quello che è stato un idolo delle folle. Per Tiberio Mitri inizia una nuova esistenza, a una precaria situazione economica si aggiungono l'alcolismo e la droga. Eppure c'è anche il desiderio di ritrovare il rapporto con i figli, Tiberia e Alessandro, che ha coronato il suo sogno ed è diventato ufficiale di Marina. E poi ci sono nuove passioni come la pittura e un lavoro come rappresentante che lo porta spesso a viaggiare con la sua roulotte. I guai però non sono ancora finiti. GR1, edizione straordinaria. Buongiorno Duccio Guida, al microfono del GR1. La rete ci ha passato la linea per darvi una notizia purtroppo agghiacciante. Una violenta esplosione ha fatto crollare parte della stazione centrale di Bologna. Ci sono morti e feriti. Il 3 agosto 1980 la strage di Bologna occupa le prime pagine di tutti i giornali. In cronaca, tuttavia, si legge che Tiberio Mitri, grande pugile degli anni 50, è stato arrestato nella sua roulotte, alla periferia di Firenze, per detenzione e spaccio di cocaina. Mitri passerà diversi mesi in carcere, così risponde intervistato dopo l'arresto. Ma io sono andato in galera anche volentieri a Roma, perché dicono che uno diventa romano andando in galera, però la storia per cui sono andato in galera è stata travisata, perché le notizie giornalistiche sono scandalose. E allora scandalose. Uscito dal carcere, l'ex campione si stabilisce a Trastevere, nel centro di Roma. Qui conosce l'attore Lino Capolicchio, che diventerà suo grande amico, come ci racconta. Stava bene, certi giorni ci vedevamo, anche successivamente, io dicevo, ma ti vedo bene, invece sai, ho ripreso a correre. Andammo alla questa prima, mi ricordo, c'eravamo io, Gianni Minà naturalmente, Tiberio, c'era Scorsese, c'era Harvey Keitel, De Niro e Isabella Rossellini. Tiberio, mi ricordo, se la prese col fatto che non veniva nominato nel film da Scorsese, e allora Scorsese gli disse a tavola, cioè, ma sa, non potevo mettere tutti, e dice, ma io sono stato uno che comunque lui ha vinto con me ai punti, non mi ha messo KO. E andammo con Tiberio a cena e c'era il figlio Alessandro. Era molto contento di stare lì col padre quella sera, di poter parlare, mi ricordo che gli chiedevamo delle cose, eccetera, così, ma si sentiva, attraverso anche il suo discorrere, una sorta di dipendenza dal padre molto forte. Ma la storia di Tiberio Mitri è ormai quella di un tramonto mesto e tragico. È stato un campione che ha fatto sognare tutta l'Europa e innamorare molte donne. Adesso però è la ripresa finale. Sembra che il destino voglia batterlo ai punti. Alessandro Mitri, detto Alex, il trentenne figlio di Tiberio Mitri, campione d'Europa di pugilato degli anni 50, è l'ennesima vittima dell'eroina, la droga che negli ultimi tempi sta distruggendo vite umane ormai con l'intensità di un flagello. Alex Mitri è stato trovato morto ieri notte nella sua auto parcheggiata in piazza San Pietro in Montorio, al Gianicolo. Quello che più sconvolge in questa storia è che il figlio di Tiberio, campione caduto in disgrazia alla fine della carriera, era da tutti considerato un ragazzo molto equilibrato e fino a poco tempo fa sicuramente non dedito alla droga. Non parlava mai dei suoi figli perché non voleva ricordare queste cose tristi, perché avere un figlio e perderlo così a 30 anni, il figlio aveva 30 anni quando è morto, al funerale pianse veramente tanto, tantissimo, e mi sembra che all'epoca del funerale era sul Messaggero di Roma, c'era la fotografia di lui e Fulvia Franco per quella circostanza. E quando era triste e beveva e piangeva, chi chiamava? Il suo primo amore, Tiberio Mitri. Ma Tiberio Mitri era stufo di sentirla. Qualche volta che parlava, ma la maggior parte delle volte, che diceva lasciami stare, costa me rompi. E gli chiudeva il telefono in faccia. L'ha fatto un due volte mentre io stavo a Roma a cena con lui. Avete sentito Alviano Fabris, amico di Mitri, figlio del suo primo allenatore. Fulvia Franco muore nel 1988. Nello stesso periodo, Tiberia, poco più che ventenne, muore di AIDS. Ad aiutare Tiberio nelle difficoltà economiche e di salute degli ultimi anni vi sono i volontari della comunità di Sant'Egidio, l'affetto della compagna e di un intero quartiere. Nella palestra di Giorgio Perreca, campione del mondo di kickboxing, Tiberio passa intere giornate a consigliare giovani pugili. Sentiamo il suo amico Giorgio Perreca, campione del mondo di arti marziali, e l'allora parroco di Santa Maria in Trastevere, Don Matteo Zuppi. Tiberio Mitri l'ho conosciuto all'incirca 15 anni fa, durante delle riprese televisive per un film. A me ha colpito tantissimo la sua umiltà, la sua dolcezza nei modi, nel suo modo di approcciare la gente. Lo conoscevo per fama, per i tanti legami della vita del quartiere, ma soprattutto l'ho potuto conoscere da quando la comunità di Sant'Egidio ha cominciato a stargli vicino e ad aiutarlo nella sua debolezza. La cosa che mi faceva sempre sorridere era quando veniva a fare la comunione, perché si arrivava con uno sguardo molto diretto e faceva come un segno di, come dire, siamo d'accordo, siamo un po' tra lo sportivo e l'amichevole. Parlavamo soprattutto di pugilato, ovviamente, poi anche di cose nostre, di kickboxing, diciamo quei campionati del mondo che avevo vinto, a confrontarli con i suoi. Insomma, parlavamo un po' di tutto, di donne, di motori, un po' di tutto. E una sera, quando eravamo in pizzeria e parlavamo del più e del meno, che mi disse che praticamente non pensava, lui dice: Giorgio, non ti rendi conto, io non credevo che la vita fosse così lunga, che arrivasse a così tanto. Negli ultimi tempi, proprio perché lui aveva questa malattia, il Parkinson e l'Alzheimer, aveva scarsa memoria, dimenticava le cose, stava spesso male, quindi l'andavo a trovare molto più spesso, quotidianamente, a volte anche due volte al giorno, per vedere come stava, se mangiava, se prendeva le medicine. Purtroppo lui era solo, comunque la sua compagna lo aveva abbandonato e a volte arrivavo a casa sua la mattina che lui non c'era, già era uscito di buon'ora. L'intenzione sua era quella, sempre quella di partire, sempre quella di viaggiare, di andare a raggiungere qualcuno che magari neanche c'era più. E questo poi, ecco, l'ha portato quel fatidico giorno a prendere, partire, ad andare alla stazione per raggiungere chissà quale meta. Il 12 febbraio 2001, a Roma, alle 6:30 di mattina, un treno travolge un uomo dall'aspetto trasandato che camminava sui binari della ferrovia nei pressi di Porta Maggiore. La tesi del suicidio verrà presto esclusa. Più probabile rimarrà l'ipotesi di un forte stato confusionale. In un festoso locale di Trastevere annunciai alla stampa il mio ritiro dal ring. Erano passati molti anni da quando un sogno mi aveva convinto a tirare pugni per mestiere. Ero emozionato, un po' mesto. Vedevo allontanarsi un mondo che mi aveva fatto in fretta, senza incertezze. Si allontanava come quando si segue un oggetto ai margini della ferrovia e in breve non si può neanche più immaginare. Avrei voluto dire tutto quello che di buono non avevo detto al pugilato in tanti anni. Tutto d'un fiato, confusamente. Come vorrei dirlo alla mia donna che mi ha lasciato. Ma la lontananza distrugge le immagini e tutto si dimentica. Lui mi ha detto: Giorgio, purtroppo vedi, a volte succedono delle cose inspiegabili nella vita, delle cose che ti segnano. A me sono successe molte, quindi ho sofferto, sono stato male, ho sbagliato, ho pagato per questo sbaglio, ma oggi mi sento una persona pulita. Tu hai vissuto tutta una vita in un ambiente diverso, una vita saltando la corda, divertendoti, essendo amato, giocando, divertendoti, spendendo, guadagnando e facendo quello che ti pare. Però da quel momento che hai smesso diventi un uomo ed è difficile diventare un uomo a quell'età quando vorresti divertirti ancora, perché il tempo di divertirti non l'ho mai avuto. Se a 14 o 13 anni sei cominciato ad andare in palestra, quando sei divertito? Se c'hai un cuore. Tutte le puntate di Mix 24 della storia si possono riascoltare sul sito www.radio24.it nella pagina dedicata a questa trasmissione. Ringrazio Alessandro Longoni, Antonella Migliaccio, Rachele Bonanni e il mitico stagista Manuel Guerrini in redazione, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. A domani.